12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parleremo del lavoro nel sociale, cercheremo di scoprire come funziona il lavoro in questo settore e quali sono i canali d'accesso per un giovane che volesse intraprendere questa strada. Avremo ospite Federico Battaglini, psicoterapeuta, docente universitario allo IUSVE e responsabile del servizio promozione salute e benessere per la cooperativa Coges di Mestre. Quando parliamo di lavoro sociale ci riferiamo soprattutto al privato sociale e innanzitutto alle cooperative. Questo perché da un lato in questo momento la possibilità per un giovane di entrare nel pubblico è molto ridotta in quanto bandi e concorsi sono bloccati e i tagli alla spesa pubblica sappiamo bene che in questo periodo sono sostanziosi. E dall'altra invece perché proprio gli stessi enti pubblici appaltano innumerevoli servizi agli attori del privato sociale. Iniziamo per questo subito a dare un po' di dati sulla realtà del nostro territorio, ovvero in Veneto ci sono ben 782 cooperative sociali registrate all'albo regionale. Abbiamo fatto una piccola ricerca sulla distribuzione provinciale delle cooperative per capire un po' quali sono le zone dove in qualche modo c'è più possibilità, almeno sulla carta, di trovare lavoro e abbiamo scoperto che in provincia di Padova ci sono 168 cooperative sociali, nella provincia di Verona 140. Nella provincia di Treviso 132, Vicenza 128, Venezia 118, Rovigo 54 e Belluno 27. Per chi volesse avere informazioni più precise su quali sono queste cooperative, dove sono e cosa fanno, può andare al sito della Regione Veneto, regione.veneto.it e scaricarsi l'elenco completo delle cooperative registrate che al momento è aggiornato a giugno 2012. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E dopo questa brevissima panoramica del nostro territorio regionale sulle cooperative sociali, ci addentriamo nel tema della nostra puntata dando il benvenuto al nostro ospite. Federico Battaglini, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna, a te e chi ci ascolta. Allora, docente universitario all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e responsabile del servizio promozione, salute e benessere per la cooperativa Coges di Mestre. Federico, ci puoi raccontare esattamente che cos'è, di che cosa si occupa il servizio? Allora, il servizio è una parte della cooperativa che si occupa di prevenzione e cura del disagio e delle dipendenze, e di orientamento scolastico per i ragazzi delle scuole superiori, di sostegno alla genitorialità e alla vita di coppia, di aggregazione giovanile e di progetti in genere legati ai temi dell'adolescenza. Quindi un panorama piuttosto complesso. Ecco, proprio parlando di panorama complesso, parlando di sociale, sicuramente appunto il campo è molto vasto, dai servizi per i giovani come il tuo, ai servizi per gli anziani, per le famiglie, per persone con svantaggio fisico-psichico, per stranieri, per minori, e la lista andrebbe avanti molto. E poi non dimentichiamo le diverse tipologie di servizi che vanno dal socio-assistenziale, sanitario, culturale, psicologico, scolastico, davvero una varietà notevole. Ecco, la figura professionale che nell'immaginario comune trova maggior impiego in questo vasto e variegato settore è quello dello psicologo. Per la tua esperienza questo è vero? Allora, è vero che lo psicologo lo incontriamo frequentemente in quasi tutti i nostri progetti e io, girando abbastanza per i servizi del territorio, è una figura molto ricorrente. Però devo dire che negli ultimi tempi anche l'educatore sta andando di moda, diciamo. Gli educatori che ci sono in giro sono pochi, spesso sono ricercati e il più delle volte sono ricercati maschi, soprattutto nelle comunità. Devo dire anche che però questa figura di psicologo o educatore è una figura che diciamo è ricca di complessità. La maggior parte dei servizi che lavorano e delle agenzie che lavorano a progetto devono avere in mente delle figure professionali che riescono ad interpretare i ruoli in maniera piuttosto eclettica. Per esempio, lo psicologo che io incontro all'università ha in mente il rapporto uno a uno di colloquio con il paziente, invece lo psicologo che lavora ad un progetto dentro l'equipe si deve spesso occupare di molti aspetti che non fanno parte della psicologia, per esempio promozione di eventi, promozione di proposte per il territorio, e quindi competenze di grafica, di gestione della tecnologia, quindi diciamo molta della vita dello psicologo che lavora a progetto è dedicata a confezionare il setting poi per avere l'utenza a disposizione per colloquio di tipo clinico oppure per gestire dei gruppi, però per arrivare a questo c'è molto lavoro alle spalle e io direi che il front office rappresenta oggi forse il 10% delle attività di chi lavora a progetto, quindi più uno è eclettico e più nel curriculum è capace di riempire questi spazi, più secondo me diventa appetibile sul mercato del lavoro oggi. Grazie Federico, prima di continuare ad addentrarci nel tema del mondo del sociale, capire insieme a te quindi quali sono i canali attraverso cui un giovane può accedere a questo settore lavorativo, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Io amo le cose semplici e bacio la mia donna sotto la pioggia perché abbiamo gusti identici. Per fare colpo non mi serve lo yacht, per fare strada non mi serve la Porsche. I'm a man, a man of simple pleasures. I got all I need, so give me whiskey measures with dyslexic eyes, seeing very clearly. By the way, I'm on my way. But all of my life I've been treated like a fool, but I'm no one's fool. Here I go once again, trying hard to pretend there's a future in. Nel presente perché ci han tolto il futuro, siamo il colore prepotente di uno spray sul muro, qui nella zona grigia terra di nessuno. I'm told the world is nearly ending, but when I look outside the birds are always singing you froze. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando del lavoro nel mondo del sociale e abbiamo ospite qui con noi Federico Battaglini. Dopo aver capito che la figura dello psicologo è quella sicuramente maggiormente richiesta in quest'ambito, è spendibile in diverse tipologie di attività, anche se non è ovviamente l'unica, come abbiamo detto, vorremmo capire come un giovane, magari al termine del suo percorso di studi, possa accedere appunto a questo settore lavorativo. Federico, in base alla tua esperienza, quali sono i canali d'accesso che un giovane può intraprendere per arrivare a lavorare nel mondo del sociale? Allora, può sembrare un paradosso, ma il modo più facile per trovare lavoro è lavorare. Questo significa che essere dentro l'ambiente di lavoro, in qualsiasi modo, anche entrando dalle porte di servizio, è il modo migliore per entrare in un circuito di relazioni che poi può portare all'affermarsi di un ruolo lavorativo stabile. Questo significa che accedere al mondo del lavoro attraverso tutte le forme di stage, di tirocinio, ma io aggiungo anche molto spesso di volontariato, io credo siano da promuovere assolutamente. Da quando lavoro per questa cooperativa io ho assunto, diciamo così, nell'equipe una quindicina di persone e direi tutte, tranne forse una o due, sono venute qui prima a fare il tirocinio. Questo per chi deve formare equipe è una possibilità di conoscere le persone e di vederle in opera e quindi al di là del curriculum offre una possibilità di screening, diciamo, di chi opera che nessun'altra forma di autopromozione può eguagliare. Le persone vengono qui, si fanno vedere all'opera e per chi gestisce l'equipe questi sono elementi di valutazione preziosi. Un'altra cosa direi, oggi per chi vuole intraprendere del lavoro nel sociale e magari vuole farlo più in forma di imprenditoria autonoma, secondo me gli ambiti che sono più interessanti oggi sono quelli che riguardano i piccoli, cioè asili nido e dintorni, e la cura degli anziani. sono ambiti che sono molto scoperti dal punto di vista del bisogno, purtroppo sono anche un po' scoperti dal punto di vista dell'investimento, quindi le risorse non sono molte. Qui l'imprenditoria privata, secondo me, ha un campo d'azione interessante. Federico, ecco, un'ultima domanda. Una volta poi entrati in questo settore, in un momento in cui appunto il mondo del lavoro è abbastanza precario ed incerto, come secondo te ci si deve muovere? Che orientamento magari è meglio seguire? Allora, è vero, i primi ingressi nel mondo del lavoro di solito non portano a dei contratti a lungo termine. Io direi che un modo per orientarsi è quello di capire presto quali sono le proprie passioni e le proprie propensioni. Cioè, in uno scenario nel quale è obbligatoria la formazione continua ed è anche obbligatorio cambiare lavoro spesso, secondo me l'investimento migliore è quello che si può fare sulle cose durevoli. In questo periodo durevoli, quello che sembra a me, e sono le cose che interessano di più alla persona. Queste tendono a non invecchiare mai, e secondo me investire in formazione o in esperienze lavorative dopo essere entrati nel mercato del lavoro è una cosa che dà un rendimento maggiore se si fa sulle cose nelle quali si crede davvero e che nella propria persona restano stabili. Assolutamente. Federico, grazie per essere stato qui con noi a 12 minuti e per tutti i consigli utili. Grazie a voi, ciao ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E a proposito di lavoro sociale, vi segnalo alcuni eventi interessanti per chi volesse saperne di più. L'Informa Giovani di Mestre Venezia organizza per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 una serie di incontri dedicati ai temi della ricerca del lavoro, che si terranno ogni lunedì a partire da oggi, 22 ottobre, e al tema di esperienze formative e lavorative all'estero, che si terranno ogni giovedì. Uno di questi incontri, quello di lunedì 3 dicembre, sarà dedicato proprio al lavoro nel settore del sociale. Per informazioni su orario e luogo e per sapere il programma di tutti gli incontri potete andare sul sito veneziagiovane.info o mandare un'email a informagiovani@comune.venezia.it. Vi segnalo poi il convegno La figura dell'educatore nella promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, che si terrà il 25 e 26 ottobre a Rovigo, organizzato dall'Università di Padova. Per informazioni potete andare al sito educazione.unipd.it. Dal 22 al 24 novembre alla Fiera di Verona si terrà la 22esima edizione di Job Orienta, un fitto programma culturale di incontri, convegni e dibattiti con personaggi anche di spicco della politica, dell'economia e della cultura. Incontri rivolti sia agli addetti ai lavori ma anche ai giovani e alle famiglie. La rassegna espositiva della fiera sarà divisa in due aree tematiche, la prima dedicata al mondo dell'istruzione e la seconda invece riservata all'università, alla formazione e al lavoro. Anche quest'anno sarà dato spazio ai percorsi internazionali di studio e lavoro con Job International, che è un progetto trasversale che propone stage e tirocini, lavoro e viaggi studio all'estero. Per informazioni potete visitare il sito veronafiere.it/joborienta. Infine vi segnalo il corso di orientamento per operatori dei nidi delle scuole dell'infanzia, organizzato dalla cooperativa CODES, che partirà a novembre 2012. Le lezioni si terranno a Padova e sono previste 200 ore di stage presso asili sul territorio regionale. Per informazioni il sito è codes.com. Prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, vi do un'ultima notizia che riguarda strettamente il nostro programma. 12 minuti dà la possibilità a giovani musicisti di far conoscere la propria musica. In ogni puntata, infatti, manderemo in onda i brani che arriveranno all'email informagiovani@comune.venezia.it oppure all'indirizzo dell'Informagiovani via Lega Garibaldi 155 a Mestre Venezia. Con il brano bisogna inviare il consenso scritto, la trasmissione del pezzo musicale e la licenza standard. Potete anche eventualmente scaricare un modulo esemplificativo sul sito dell'Informa Giovani, che è veneziagiovane.info. A proposito di musica, sul sito dell'Informa Giovani sempre trovate tutto il programma dettagliato della stagione autunnale degli appuntamenti di Salotto Villa Franchin, che hanno preso il via il 10 ottobre. Ogni mercoledì dalle ore 19 si alterneranno musicisti, fotografi, videomakers e molto altro. Prossimo appuntamento 7 novembre con DJ Elefunk e Claudia Bincoletto e Mani di Cuoio, serata dedicata all'handmade artistico. E rimanendo sempre in tema di musica, vi do una piccola anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata al lavoro nel mondo radiofonico. Per oggi è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.